Ascolta, ti volevo chiedere, che biscotti hai? Che hai solo fatto le gocce, eh? Perché vuoi roba del Mulino Bianco, roba così? Sì, o anche di qualche altra marca, o della Barocchi. Ah, niente, quindi la Barocchi, che è questi qua. Ah, ok. Ah, ci sono quelli, eh? Secondo altri,